La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, 16:30 primi e 34 secondi in diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @ radio24.it. Non rispondo a domande del tipo come la pensa su questo o quel politico. Non abbiate pazienza, bisogna sforzarsi in questo periodo di essere più asettici possibili. Noi siamo tenuti al rispetto di questa regola che io considero medievale, ma questa è la mia opinione, quella della par condicio, eccetera eccetera. Quindi tutto il dibattito di queste ultime ore, ma De Luca eccede, non eccede, faccio finta di non vederlo, non esprimo opinioni, perché può essere che la Gcom pensi che se esprimo un'opinione su un politico del sì o del no devo equilibrare con un'opinione opposta del no, del sì. Sto facendo una battuta, ma voi non avete idea quanto siano a volte incomprensibili, anche per uno che fa questo mestiere da un po' di anni, i criteri a cui bisogna attenersi perché l'azienda non venga a dirti guarda che ci stai esponendo alle sanzioni. Perché tu puoi avere invitati per parlare del referendum che dicono sì e no e guardare i minuti, ma mica è quello il criterio, dovete sapere. Fosse questo, è semplice, elementare ed è doveroso. No, ce ne sono altri due di criteri e a volte io vi invito, voi che giustamente, secondo le vostre opinioni, protestate perché avete l'impressione che non siano abbastanza ben rappresentate, ma guardate che ci vuole il bilancino di un fisico nucleare, nel senso che non basta quello del farmacista. Stiamo parlando di quanti particelle subatomiche. Va bene, questo sfogo per dirvi che io spero che il referendum venga presto, perché stare sottoposto a questo criterio per la scelta degli ospiti, dei temi, dei minuti, su come si fanno le domande è veramente insopportabile. Quindi mandatemi quesiti e proposte di trasmissione, ma non su queste cose qua e soprattutto sul referendum. Possiamo parlare tra noi, però noi siamo tenuti a una pianificazione di tipo i robot la farebbero meglio di noi, perché spesso noi, io e Alessandro Mina, quando ci mettiamo a dire ma facciamo così, poi dice no, un momento, aspetta, noi parliamo di questo tema con un esponente del governo, questo è uno dei tre criteri, allora in questo periodo dobbiamo equilibrarlo con uno dell'opposizione, però aspetta, magari di un pezzo dell'opposizione che sul referendum la pensa come quello del governo. Davvero bisogna fare così, eh? La roba. Ci guardiamo negli occhi e diciamo bah. Allora, tutto questo per chiedere venia. Oggi non parliamo appunto della polemica politica del giorno in corso, cioè quella di Luca Bindi a seguito delle dichiarazioni rese dalla trasmissione in cui ero ospite anch'io ieri sera, cioè Matrix, su Canale 5. Bensì, traiamo spunto da due vicende trattate oggi da due quotidiani per porci una domanda ricorrente in questo paese, ricorrente perché siamo un paese che chiede di poter investire di più, abbiamo una polemica aperta con l'Europa che poi per il momento è finita solo con l'astensione e non con il veto per la bozza concreta di bilancio 2017. Vedremo se la nostra riserva su quello 2020 in più si supererà. Comunque saprete che anche su questo l'Europa non dice il suo giudizio vero sulla legge di bilancio, perché bisogna aspettare anche lì il referendum. Va bene, aspettiamo anche questo. Però spesso, proprio per dire che l'Italia deve superare i freni eccessivi di bilancio pubblico e non tirarsi indietro di fronte allo sviluppo, lo sapete che una delle ricorrenti argomenti è quello di dire ci vogliono dei piani speciali. Possono essere gli eventi speciali, tipo a Roma quello che si è appena chiuso per il giubileo straordinario, tipo quello che ha avuto un esito diverso da quello che si aspettava il comitato promotore, cioè le Olimpiadi a Roma, candidatura per gli anni futuri per il 2024. Ecco, oggi ci sono due notizie esattamente su questo tema che a me fanno molto molto riflettere. Io sono diventato sempre più scettico negli anni sul fatto che queste occasioni speciali siano veramente un motore di sviluppo. Ho come l'impressione che siano dei corridoi speciali nei quali si accumulano risorse che non fanno parte dell'ordinaria amministrazione, e a quel punto il criterio diventa gli interessi di chi se le vuole aggiudicare, a prescindere da un serio esame costi-benefici, e cioè da una valutazione seria se valga la pena allocare queste risorse in un paese che ne ha poche di finanza pubblica a disposizione. Ma rendendo prioritarie le scelte che creano PIL stabile aggiuntivo e non spese ad hoc per consensi o magari aumenti di reddito e di spese e di consumi per questo o quel settore, ma solo a tempo. Che cosa riguardano queste due vicende? Perché altrimenti parliamo solo in termini generali. Il Corriere della Sera oggi ospita una pagina intera, pagina 31, per chi avesse in mano il giornale, di cui vi leggo il titolo: l'autogol del piano città. Spesi 736 milioni, incassati 173. Per avere i fondi pubblici, i comuni hanno arricchito i loro progettisti. E devo dire che l'ultima riga, quella del sommario Catenaccio, fa capire perché mi abbia colpito. E abbiamo con noi l'autore Sergio Rizzo, che ringrazio di essersi reso disponibile. Buon pomeriggio e grazie di quello che fai tutti i giorni. Buon pomeriggio a voi e grazie di avermi chiamato. Poi la seconda notizia, che liquido in breve ma teniamocela lì appuntata, invece è il resoconto che oggi trovate sul Messaggero Quotidiano di Roma delle risorse speciali che, sia pur limitatamente, erano state messe a disposizione dal governo per il Comune di Roma in ragione del giubileo straordinario che si avvia a chiusura. Sì, dichiarati 20 milioni fedeli, però in realtà i flussi turistici non si è visto, non se ne è visto l'aumento. E il bilancio finale, comunque, per tutto quello che è avvenuto a Roma, la lunga crisi della Giunta Marino, i mesi con Tronca commissario, poi le elezioni, il ritardo dopo le elezioni per arrivare a una giunta finalmente formata, gli inceppi in nomine poi ritirate e così via. Il bilancio finale è che comunque di quel monte di risorse per i progetti, il numero di progetti si è fermato a poco più di 40 su 146 che dovevano essere, e sono avanzati 24 milioni. Quindi, come vedete, anche in questo caso un evento speciale che non ha avuto sto grande effetto che ci si aspettava e che addirittura produce in una città che ha penuria di risorse pubbliche, o almeno questo dichiara, si vede dal suo bilancio, non si è riusciti a realizzare neanche spese ben realizzate in maniera tale che non ci fossero sospetti per l'ANAC e per tutti gli altri, ma ne avanzano 24 milioni. Questo per dire Roma. Ma andiamo invece a spiegare che cos'è questo piano città di cui ha parlato Sergio Rizzo. Spiegacelo un po'. Ma il piano città è una delle classiche operazioni che partono sempre con le migliori intenzioni e arrivano poi con le peggiori, no, risultati, con i peggiori risultati, perché doveva essere un segnale, no, dell'interesse, dell'attenzione del governo, allora il governo Monti, per lo stato in cui versano le città italiane. Sappiamo che le periferie sono in condizioni di degrado pazzesco. Sappiamo che molte città hanno servizi che sono carenti, e doveva essere un modo per, in che modo, dare un segnale che il governo, che la politica, no, si interessava a questo capitolo. E però l'hanno fatto come al solito male, no? Perché intanto tu mi devi spiegare 220 milioni, no, cosa ci fai? No. Perché 220 milioni era il monte di finanziamento complessivo. Esatto. Esatto, allora a quel punto invece che fare un piano città, fai il piano di una città, cioè 220 milioni li dai a Bergamo, li dai, che ne so, a Catania, no? Se tu ritieni, fai una scelta. E invece a questa specie di bando a tutti i comuni quanti ne parteciparono? Oh, hanno fatto un bando dove si poteva appunto accedere a queste risorse, hanno partecipato 457 comuni, che hanno però prodotto richieste per 20 miliardi di euro. Beh. 20 miliardi. Euro, no? Dove è stato il problema grosso? È che per evitare che questi soldi poi venissero distribuiti senza costrutto, loro hanno messo una clausola nella norma che, in base alla quale potevano essere finanziati soltanto quelle iniziative che avevano un progetto tempestivamente esecutivo. Quindi si è messo in moto una macchina infernale, no? Cioè, si è messo in moto una macchina infernale, tutti i comuni hanno cominciato a fare progetti su progetti e alla fine hanno speso per fare quei progetti una somma enorme. C'è stato calcolato dall'IFEL, che è il centro studi dell'Associazione dei Comuni Italiani, che sono stati spesi 736 milioni per fare questi progetti. Piccolo particolare, di soldi li hanno portati a casa 28 comuni, soltanto 173. Quindi è stato proprio una follia, no? Una follia tecnica. Cioè, alla fine hanno realizzato questi comuni, invece che risorse aggiuntive, complessivamente, sia pur bisogna vedere come spalmati, un indebitamento superiore di 580 esatto. milioni. Esatto, esatto. Così è andata. Questo non lo dico io, hanno fatto i conti loro, hanno fatto i conti comuni. Quindi, no, io questa storia non la conoscevo, e però, cari ascoltatori, è impressionante perché riguarda un complesso di responsabilità distribuite lungo l'intera scala dei poteri pubblici, perché da una parte c'è un governo che annuncia una cosa di questo genere, siamo sempre lì, gli annunci dei governi spesso sono gravati dall'intenzione a breve di massimizzare l'effetto sui giornali di quello che si annuncia, quindi parte il grande piano sulle città, poi dici 200 milioni, come fa ad essere un piano delle città, ma perché lo annunciate così? Però ciò malgrado, centinaia e centinaia di comuni si fanno avanti, però a quel punto gli inserisci una clausola che significa voi dovete progettare, quelli progettano perché altrimenti non hanno diritto ai soldi, i soldi non ci sono, a quel punto per aver diritto ai soldi progetto, io spendo, sono i vostri soldi, cari amici in ascolto, i miei, quelli di tutti i cittadini delle città, e alla fine il risultato è che invece si trova pure indebitati in più, senza che quei soldi veri al netto, quindi abbiano messo nessun comune in condizione di effettuare davvero interventi aggiuntivi. Come è possibile che un meccanismo perverso di questo tipo sia quello che continua ad avvenire nel nostro paese? Che risposta dai a questo tu? Ma perché è la follia, secondo me, della burocrazia, anche qui, no? Cioè, questi non sanno niente, vivono fuori dalla realtà. Perché qui io sono convinto che non è stato il Parlamento o il Ministro, è stato sicuramente l'esperto legislativo che gli ha chiesto, no, fai tu la norma, quello ha scritto la norma e ha detto, adesso li frego io, no, questi che... No, che chiedono sempre i soldi senza avere i progetti, infatti i miei progetti. Sì, ma però voglio dire che sono fuori dalla realtà. Aspetta, Sergio. Cioè, innanzitutto, in un mondo reale, cioè, basta un minimo di buon senso, per cui se io lancio un progetto e lo apro a tutti i comuni italiani, non posso avere 200 milioni, perché a quel punto dovrei dire, se ci metto 200 milioni, cari comuni, sappiate che mi potete chiedere finanziamenti a testa per 3 milioni, cioè zero. Cioè, ecco. Primo. Secondo, se poi gli metto la progettazione esecutiva per poter partecipare, io devo dire, cari comuni, naturalmente sappiate che gli oneri per la progettazione, siccome automaticamente non vi danno diritto, perché sarete comunque selezionati anche una volta che presentate i progetti esecutivi, non vi danno diritto nemmeno a rientrare dei costi, quindi pensateci bene, perché devono essere priorità tali da convincerci automaticamente anche a noi, altrimenti vi indebitate. E questa seconda cosa manca anche qua. Terzo, ci deve essere un criterio ben chiaro che consenta ai comuni di autodiscriminarsi per iscriversi e fare la gara e spendere dei soldi. E neanche questo c'era, tant'è vero che all'inizio erano quasi 500 i comuni che si presentano. Cioè, a me sembrano, Sergio, delle elementari violazioni, ma di principi di elementare buonsenso. Come devo allora, dire? Ti racconto un'altra storia. Allora, questa vicenda qui fa il paio con i finanziamenti per il piano periferie. Allora, a un certo punto spunta fuori, sempre della serie che bisogna rifare le città, bisogna sistemare, un altro finanziamento, mi sembra in questo caso di 500 milioni, pluriennale ovviamente, no? Per le periferie. E siamo alle solite, no? Perché uno dice, ma come facciamo a... quali periferie scegliamo? Quali... altro bando, si fa un altro bando. Questo bando è fatto in modo tale che le città che sono interessate al piano periferie non possono chiedere più di 2 milioni ciascuna. E poi c'è sulla base, i finanziamenti vengono concessi sulla base di una formula matematica del disagio sociale. Io ci ho fatto un articolo, ormai è passato più di un anno, ma che è una cosa sconcertante questa, no? Perché tu dici, ma chi è venuto in mente? Ma chi è quel genio che ha pensato che con una formula matematica uno possa stabilire se una periferia, no, oltretutto, è più disagiata di un'altra, vivendo periferia. Sergio, in un periodo che da qualche annetto a questa parte celebra il trionfo del ritorno al valore della scelta politica rispetto ai tecnici, eccetera, altro che tecnici e monte, qui l'algoritmo matematico, il computer l'algoritmo da solo. Capisci? Cioè, e quindi da questo punto di vista, e qui siamo al discorso della qualità della classe dirigente, perché dobbiamo dirlo con estrema chiarezza, no? qui c'è un problema enorme, gigantesco di classi dirigenti. E questo riconduce al tuo ultimo libro, Brocchi. Ma non sono capaci. Cioè, perché lì il punto vero è che non c'è la capacità di vedere la realtà dei fatti. Perché anche un bambino capirebbe che non funziona una cosa del genere. Se tu devi risanare le periferie e hai 500 milioni, ma mettili tutti a Napoli, mettili tutti a Roma, mettili tutti a Bologna, ma se tu li dividi con un plafond massimo di 2 milioni, ma che cosa vuoi portare a casa? Avrai una distribuzione a pioggia di quattrini di cui appunto si beneficeranno gli studi di ingegneria, no? I consulenti. No, perché gli unici sono appunto i consulenti scelti dalle amministrazioni che hanno realizzato un beneficio massimo di questa, della vicenda che racconti tu. Cioè, per carità, non è che dico che quei 736 milioni non hanno prodotto economia in circolo, ma naturalmente non hanno prodotto altri risultati che quello. C'è dubbio. È pazzesco. Allora, io adesso ti faccio un'altra domanda, ma la risposta, se puoi stare ancora un secondo con noi, me la devi dare dopo un minuto di traffico stradale che è obbligato a quest'ora, perché io voglio sapere da te che impressione ti fa invece la vicenda, a proposito sempre di piani straordinari, dei milioni che avanzano per il giubileo straordinario di Roma. Io ti dico le opinioni che ho raccolto tra i politici, anche se ho preferito non evitarli perché mi squilibravano sulla par condicio, però tu mi dici, da osservatore e poi anche per la responsabilità che c'hai per la cronaca romana oramai, cosa ne pensi? Tra un minuto strada. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. La versione di Oscar. Allora, siamo andati in diretta, argomento i piani straordinari per fare gli investimenti che nell'ordinarietà non si riescono a fare, la storia di questo autogol del piano città lanciato dal governo Monti, raccontatoci da Sergio Rizzo. In realtà alla fine, rispetto alle centinaia di comuni che avevano partecipato per spartirsi questo fondo di 200 milioni, alla fine di fronte alla progettazione obbligatoria esecutiva, il bilancio finale di questa operazione è che in realtà 28 comuni hanno incassato 172,8 milioni ma ne hanno spesi 736 milioni di progettazione, quindi una classica dimostrazione a tavolino di come sia paradossalmente un autogol questo organizzare bande di questo tipo per piani straordinari. E ci sono tutte le premesse perché, sia pure con un iperfrazionamento questa volta, la stessa cosa funzioni con le centinaia di milioni annunciate, stanziate per il piano periferia. Avete sentito Sergio Rizzo, che resta con noi, perché dall'altra parte c'è la vicenda della chiusura per gli interventi straordinari che erano stati connessi appunto al giubileo straordinario a Roma, che si avvia alla chiusura. Quelli realizzati sono meno di un terzo dei 146 che erano stati preventivati, e addirittura alla fine avanzano 24 milioni delle risorse che il governo aveva messo a disposizione. Ho fatto tre tipi diversi di telefonate. Naturalmente, chi appartiene alla maggioranza precedente politica, quindi quella incardinata sul PD, Marino, eccetera, eccetera, dà la colpa a chi è subentrato e alla giunta a guida Raggi. Quello che invece mi hanno detto da parte di membri politici eletti che oggi guidano la città è: siamo arrivati troppo tardi per rimediare il problema. Ma ho anche chiamato due strutture tecniche del comune che mi hanno detto, per i vincoli a cui in realtà eravamo sottoposti per via della gestione commissariale e poi per la lunga attesa, nella realtà tecnicamente noi abbiamo capito sin dall'inizio che non saremmo stati in condizione di adempiere. È già stato un miracolo che ne abbiamo fatto poco più di 40 su 146, ecco perché i soldi alla fine sono anche avanzati. Io tendo a credere, a dire la verità, soprattutto al peso di questa terza opinione che ho raccolto, cioè come nel caso della storia raccontata da Sergio Rizzo, sono proprio i criteri tecnici che la pubblica amministrazione e i politici, ma seguendo il modello della pubblica amministrazione, mettono, che rendono impossibile quello che viene sbandierato, annunciato e che costituisce poi l'argomento di campagne così pervasive a favore degli interventi straordinari. Però Sergio, tu ormai hai una responsabilità, segui la cronaca, organizzi la copertura della cronaca per quella sera a Roma, eccetera eccetera, avrai quindi un'impressione tramite i colleghi del Corriere che seguono anche questa vicenda. Che opinione ti sei fatto di questo bilancio finale del giubileo straordinario a Roma? Al Alfonso Sabella, che è stato assessore alla legalità della Giunta Marino, che in un libro che ha scritto con un giornalista del Fatto, che si chiama Giampiero Calapà, che è un libro che si intitola Capitale Infetta, un libro che consiglio a tutti di leggere per capire che cos'è questa città, lui racconta che un giorno un capo di un dipartimento, quindi uno dei massimi esponenti della classe dirigente del Campidoglio, gli ha chiesto se una gara pubblica doveva essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Esatto, allora, questa cosa qui lui la racconta per, diciamo, descrivere lo stato, diciamo, della qualità della classe dirigente del Campidoglio. Io credo che il problema sia soprattutto quello, sì, anch'io, cioè il fatto che questi non sono capaci. Non sono capaci perché sono stati assunti in un certo modo, sì, certo con dei concorsi, ma quali concorsi? Ovviamente hanno vissuto senza aver nessun tipo di valutazione, la loro vita lavorativa senza aver nessuna valutazione meritocratica, quindi si sono semplicemente accontentati di prendere lo stipendio alla fine del mese. Io questo è quello che penso. No? Stiamo parlando anche del grande comune italiano con la più alta percentuale rispetto alla retribuzione totale di un finto premio di merito spalmato a tutti. Esatto. Io non do la colpa alla Giunta Raggi di non essere riusciti, anche se non posso fare a meno di sottolineare che di questi 12 mesi di giubileo la Giunta Raggi ne ha fatti 5, quindi che non sono proprio pochi, attenzione. E lì poi si vede che loro in tutti questi 5 mesi hanno chiuso soltanto 2 gare da 25.000 euro. Esatto. Quindi questo perché? Perché poi c'è stato 3 amministrazioni che si sono sovrapposte, no? Prima Marino ha cominciato, poi è arrivato il commissario, poi è arrivata la Giunta dei 5 Stelle. Ma soprattutto loro hanno messo in evidenza un difetto, un problema che è congenito alla loro, chiamiamola ideologia, non voglio dire usare il termine ideologia perché non è ideologia. Allora, impostazione politica. Allora, che è il terrore dei soldi. Cioè, loro hanno il terrore di sporcarsi le mani maneggiando i soldi. Questa è la verità. Questo è quello che sta succedendo a Roma. Roma è ferma. È ferma anche per questa ragione qua. Le buche. Chi tappa le buche? Il fatto di appartenere le buche. Io non vedo uno che tappa una buca in giro per Roma. Se ne aprono tutti i giorni di più grosse, gli autobus, i soldi degli autobus, avevano stanziato 18 milioni per fare la manutenzione, li hanno rimbalzati non so per quanti mesi da una commissione alla Giunta. Adesso sono appena definito i criteri per il bilancio, vedremo, però questo è un problema aggiuntivo. Io sono d'accordo con Sergio anche su questa identificazione. Il problema è che è vero che è facilissimo beccarsi a visa di garanzia e violare le leggi per quante ce ne sono di vigenti, però è vero che questo non può legittimare il fatto che a quel punto si sta con le mani ferme, perché sennò il disastro in cui sta Roma peggiora inevitabilmente. Sta di fatto che la mia opinione è che questo bilancio finale del giubileo straordinario a me ha valorato l'idea che non ho sbagliato troppo a essere critico, anche se gli editori di questa radio me lo hanno rimproverato, quelli del CONI mi hanno messo una lista nera sull'ipotesi di Roma per le Olimpiadi. Viva le Olimpiadi, ma il bilancio delle Olimpiadi precedente è sempre stato ritoccato e l'esperienza italiana resta questa, dell'autogol del piano città che vi racconta Sergio Rizzo oggi sul Corriere della Sera, che ci ha ripetuto qua, e dell'epilogo amarognolo, se permettete, dei tanti interventi promessi per il giubileo straordinario che non ci sono stati. Grazie a Sergio Rizzo, continuate usando 24, appuntamento con me Alessandro Milo domani alle 8:20, un attenti a noi due.